Salvadanaio. Buongiorno e benvenuti a questa puntata speciale di Salva Danaio, in cui vi riproporremo il meglio di alcune delle puntate andate in onda nelle scorse settimane. Consumare meno per vivere meglio è possibile? Come? Quali sono gli accorgimenti da adottare? Deborah Rosciani ne ha parlato con Cristina Gabetti, autrice di Occhio allo spreco, nella puntata andata in onda lo scorso 7 dicembre. Quale sensibilità c'è intorno alla salvaguardia ambientale nei gesti di tutti i giorni? Ad esempio, facendo la spesa, cucinando, mangiando e bevendo, vestendovi, facendo la pulizia di casa, in quale contesto vi chiedete quanto e come il vostro comportamento abbia un impatto più o meno forte nella ambiente che vi circonda? Allora oggi raccontateci le vostre esperienze, le vostre riflessioni e magari scopriremo stamattina che potreste adottare comportamenti ancora più virtuosi nei gesti di tutti i giorni, contribuendo così a far respirare meglio il pianeta e di conseguenza anche la vostra famiglia, i vostri figli. Con chi commenteremo le vostre abitudini e magari i vostri consigli? Sentiamo. Il bicarbonato è comunemente conosciuto per le sue proprietà digestive. Sapete però che ha un'altra grande qualità: sgrassa e igienizza, e per questo nelle vostre case può essere usato per gli scopi più diversi. Ora misuro 48 grammi di bicarbonato. Aggiungo questi. E allora mi introduco, ma gli affezionatissimi di Striscia la Notizia avranno riconosciuto questa simpatica sigletta e soprattutto la voce. Occhio allo spreco, una rubrica in onda su Striscia periodicamente, condotta da una simpaticissima anche collega giornalista, Cristina Gabetti. Cristina, benvenuta a Salva Danaio. Ma grazie. Sono felice, onorata della simpatia, ma è proprio con simpatia che va trasmesso questo nostro messaggio. Il messaggio. Dobbiamo conquistare più persone. Esatto. Eh sì, perché ci sono anche proprio, come dire, gli irriducibili, non dico tanto dello spreco quanto proprio delle cattive abitudini che tanto fanno male all'ambiente. Più sentono parlare di questi temi, Cristina, più si incaponiscono nelle cattive abitudini, per cui ecco, se non la simpatia, che cos'altro possiamo utilizzare? Che cosa ne pensi? Ma io punto, guarda, invece a tutti gli altri che sono un po' indecisi, gli incalliti lasciamo che o si arenino sugli scogli delle loro errate certezze, oppure si lasciano convincere da qualcuno che sta a metà strada tra me e loro, tra noi e loro. C'è un mondo in mezzo molto pronto, che forse è incerto su quali passi da compiere, su quali sono i passi da compiere. Ecco, quelle sono le persone da conquistare, che fanno intercettare, numero, sì. E che effettivamente potrebbero, insomma, essere determinanti per la svolta verso la sostenibilità. Allora, perché abbiamo interpellato stamattina Cristina? Adesso, a parte chiaramente l'occasione che ci viene data dal vertice di Copenaghen e della sua esperienza televisiva, ma soprattutto la sua è un'esperienza sulla carta stampata, nell'editoria, perché è uscito da poco tempo Occhio allo spreco, consumare meno e vivere meglio, che è questo manuale mutuato proprio dall'esperienza, credo, televisiva, poi magari Cristina ce ne racconta l'origine, e dove Cristina appunto racconta qual è il suo impegno sui temi ambientali e di ecocondotta, perché già un libro precedente su questi argomenti c'era stato, e quali sono proprio i suggerimenti pratici, oltre che di buonsenso, che si possono dare alle famiglie che magari non hanno molto a cuore appunto la tematica ambientale e la tematica anche del, come dire, anche dello spreco, mi viene, Cristina, perché io stavo leggendo in questi giorni di una rilevazione che è stata fatta da un'associazione dei consumatori, l'ADO, che qui oggi magari abbiamo anche il pretesto di introdurre il tema natalizio, che ha calcolato quanto cibo viene sprecato ogni anno. Ogni famiglia italiana butta ogni anno nel cassonetto in media 515 euro, che è pari al 9% della spesa totale effettuata, e così questa associazione ha stilato la lista degli sprechi della spesa alimentare 2009 con le previsioni delle prossime festività natalizie e il confronto col 2008. Poi vi darò qualche percentuale, qualche dato in più rispetto a questo. Partendo dal Natale, all'insegna del risparmio, Cristina, quali suggerimenti soprattutto utili possiamo dare alle famiglie che ci ascoltano e che quest'anno, anche per il bilancio magro che ci sarà per molte famiglie, si accingono così ad orientarsi verso il regalo utile? Possiamo partire da questo stamattina? Ma assolutamente, possiamo partire, il tema è talmente vasto che possiamo, il Natale è un ottimo pretesto per iniziare. Allora, lo spreco sì, pare che ammonti a 4.000, noi italiani buttiamo 4.000 tonnellate di cibo al giorno in spazzatura, sicuramente quantità che aumenta esponenzialmente quando siamo di fronte a una festività. Io, essendo mezzo americano, ho avuto un'amica che è venuta a fare il Thanksgiving qua, e effettivamente le mie, diciamo, misure antispreco sono a puntino e ben affinate, quindi veramente non buttiamo via niente. Devo ammettere però che un po' di cose sono andate a male proprio perché la mia amica ha portato in eccesso, diciamo, il tacchino è difficile, tacchino abbiamo rimangiato, ma le torte purtroppo due sono andate a male. Tacchini giganteschi peraltro, anche consumarli ci si impiega 3 giorni. Il tacchino però l'abbiamo usato tutto perché poi lo puoi surgelare, puoi fare i panini, puoi fare, insomma, si riutilizza bene. Allora, intanto io credo che è un buon momento per tornare all'autentico valore del Natale, perché il Natale dovrebbe essere un'esperienza innanzitutto, un'esperienza interiore, è un momento di festa. Adesso, al di là della religiosità, però siccome è universalmente presente nei calendari in tutto il mondo, comunque può essere un buon momento, anzi è un momento adatto per sintonizzarsi sull'onda del cuore, dello spirito, e quindi avere anche reale diciamo empatia con chi veramente ha meno, e quindi automaticamente la bella figura si fa a Natale con il giusto e non con il troppo. Regalare esperienze invece che cose, regalare tempo è la cosa che lamentiamo tutti, di non avere abbastanza tempo con le persone care, con i nostri figli, tra amici. Io ho appena festeggiato il compleanno, e sarà un compleanno memorabile perché sono andata a ballare con i miei amici, cosa che non facevi da tempo. Da un sacco di tempo. Anche se tu hai avuto una vita piuttosto intensa e ricca, perché ce lo dicevi appunto, sei italo-americana, solo che poi ti sei fermata per 3 bambini arrivati nel frattempo, per cui hai riconquistato un po' del tuo spazio. Infatti, diciamo che tutto quello che io racconto sulla carta stampata, in televisione, più o meno è tutto frutto della mia esperienza e sono le frontiere nuove, diciamo, che la mia curiosità mi spinge a investigare. Però di fronte al terzo figlio, il primo è nato in epoca ancora rock and roll, io ho fatto cronaca di spettacolo per più di un decennio, divertendomi molto. La seconda ha iniziato a risvegliare un po' di consapevolezza, ho iniziato a praticare parecchio lo yoga perché sono stata messa agli arresti domiciliari, siccome correvo in giro come una matta a intervistare a destra e manca. A un certo punto lei si è avvicinata all'uscio un po' presto, e per cui il medico mi ha messa a casa, e io ho detto: che faccio di me stessa a casa 2 mesi? Mi sembrava una sciagura tremenda. In realtà internet ti ha aperto il mondo. Mi ha aperto il mondo, e poi col terzo mi sono detta: no, aspetta, qui bisogna veramente chiedersi io che cosa sto facendo. Quindi è nato il primo libro, dal primo è nato Striscia, e da Striscia e primo libro e contatto con il mondo è nato il secondo, insomma, questo è un po' l'iter. E adesso lo leggiamo insieme, questo libro, Cristina, perché vogliamo naturalmente conoscere qual è anche il tuo suggerimento pratico per ogni tipo di abitudine a cui ogni famiglia è abituata, dall'utilizzo degli elettrodomestici al fare la spesa, perché ho letto lì per esempio tanti suggerimenti che sono per certi versi, forse per qualcuno un po', passami il termine, non lo voglio dare nell'accezione negativa, integralisti, per proprio gli ambientalisti purissimi, poi però scopriamo che magari anche il consiglio più eccentrico può essere sicuramente adottato da ognuno di noi. Ho letto con grande interesse la ricetta della torta riciclona, che pensavo chissà che cosa fosse, invece quanto di più semplice, che anch'io che sono assolutamente una frana in cucina posso preparare, per cui insomma ci sono tante cose divertenti, adesso le racconteremo ai nostri ascoltatori, che invito però, perché forse non hanno capito che siamo in diretta stamattina, a chiamarci all'800 24 0024 o scriverci al 349 238 6666. Ce n'è già uno che ci ha scritto, Cristina, che cogliendo lo spunto dal primo file che abbiamo mandato per spiegare a che trasmissione appunto appartenessi, che il bicarbonato libera anidride carbonica. L'anidride carbonica viene emessa da molti nostri gesti e viene per fortuna riassorbita anche laddove riusciamo a mantenere un naturale equilibrio In tutti i processi produttivi, bene o male, se hanno qualche intervento dell'uomo, c'è un rilascio di anidride carbonica. Possiamo però, è importante sapere, mettendo tutto sulla bilancia, che quando utilizziamo il bicarbonato al posto di tanti prodotti, perché sostituisce, per dire, quei veleni tremendi con i quali si lucidano i metalli, e igienizzante, per cui sostituisce una serie di prodotti battericidi che si usano spesso e volentieri in bagno e in cucina, insomma pensiamo a quali veleni riversano quei prodotti nei nostri corsi d'acqua e nella terra, e pensiamo a come sono messi i corsi d'acqua. Io credo che, mettendo il tutto sulla bilancia, valga ancora la pena tentare la ricetta del bicarbonato. Allora Cristina, tra l'altro lo ricordo, sulla scia dell'esperienza maturata con l'esperienza televisiva, ha scritto il libro Occhio allo spreco, consumare meno e vivere meglio. Cristina, già che ci siamo, visto che siamo in periodo natalizio, magari lo suggeriamo a qualcuno. Edito da Rizzoli, 207 pagine, costa 16 euro. Così fatto pure un po' di pubblicità. Grazie. Almeno è un regalo utile, ecco, questo sicuramente. Tutto stampato su carta. Passerà, il libro resta. Su carta riciclata, immagino, no? Perché la carta certificata FSC. Sì. Qualche volta noi così magari adottiamo questi buoni comportamenti, però chiaramente poi, tutti presi dalla nostra quotidianità, difficilmente andiamo a documentarci su quelli che sono i risultati, no? E della raccolta differenziata, magari all'interno del nostro, nell'ambito del nostro paese, della città in cui viviamo, e quindi anche, come dire, ci scoraggiano un po' tutti i risultati generali che si ottengono, data anche per esempio l'emergenza che viene affrontata a Copenaghen in questi giorni. Secondo te, proprio per misurare anche il risultato concreto dei nostri gesti quotidiani, come possiamo fare per essere anche più incentivati? Allora, per concludere appunto il discorso che facevamo sulla raccolta differenziata, una delle grandi critiche che sovente vengono fatte è: io ho visto il camion, viene, raccoglie e mette tutto insieme. Esatto. Allora, succede anche all'interno di molti edifici, sì. Allora, intanto dipende. Allora, io vedo sempre il positivo. È ovvio che sappiamo che insomma ci sono parecchi bastoni che si infilano nelle ruote della buona ecocondotta, no? Hanno a che fare anche con corruzione, con tutte quelle cose sulle quali noi, io penso che se ci si concentra troppo su quello, è molto facile scoraggiarsi al punto da rimanere inchiodati e inattivi su tutti i fronti. Siccome mi sono allenata alla proattività, quindi all'essere non reattiva ma a scegliere lo spunto positivo per poi innescare una catena di azioni, dico che il camion intanto deve avere abbastanza rifiuti differenziati da raccogliere, perché sennò non ci sta proprio nell'economia di scala di mandare dei mezzi separati per raccogliere i diversi rifiuti. E poi talvolta l'accordo con la municipalizzata è proprio che sia un unico camion a raccogliere e poi differenzia la fonte. Quindi quello è un primo aspetto. Come misurare? Sicuramente la fantasia aiuta, e poi non solo. Ad esempio, io quando lascio, cioè ormai quando sento un rubinetto aperto in modo innecessario, proprio il mio orecchio si è allenato a sentire quel suono come un fastidio. Però per non farla talebana, io non posso dire chiudi il rubinetto. Alla fine allungo io la mano e lo faccio, cercando di allungare anche un sorriso, perché ho avuto un'esperienza carina un giorno che mi ha, diciamo, confermato quanto questo atteggiamento, l'atteggiamento positivo, dia più risultati. Stavo legando la bicicletta a un palo, c'era un signore in una macchina che fumava una sigaretta e ha buttato la cicca a terra. Io l'ho guardato, invece che dire ma lei è un cretino, c'era quella voce dentro di me. Ma hai contato fino a 10 e cosa hai fatto? Ma perché? E lui mi ha guardato, poverino, talmente scioccato, mi ha detto no, è vero, mi scusi, si è alzato la presa e l'ha buttata via, promettendomi di non farlo mai più. Benissimo, quindi insomma un gran sorrisone, visto che siamo donne qualche volta sbattiamo anche un po' le ciglia adesso, e magari riusciamo un po' anche così ad invogliare qualcuno a cambiare le proprie brutte abitudini, perché questo è veramente terribile. Come quello che per esempio dall'autostrada lancia il pacchetto delle sigarette, no? E così, quello è veramente indecente. Assolutamente. Allora, guarda Cristina, ho talmente tanti messaggi e tante telefonate che vorrei tenerti qua per almeno altre due ore, non ce la faremo mai. Soprattutto il tema dei rifiuti ha già scatenato grandissimo, grandissimo interesse. Devo dire che qualcuno chiede anche la ricetta della torta riciclona, e io